dicembre, sempre scazzato. Emozioni da gridare, ciò che aveva accumulato. Pubertà attraversata, tra dubbi e indecisioni. Contrasti interiori, troppi suoni, troppi dolori. Sfoghi sulla carta, alla luce delle stelle. Candele spente, fumo di sigarette, matite e penne. 100 bivi e 1000 scelte. Reputavo le mura di Firenze troppo strette. Animo dannato, con l'inchiostro mi sfogavo. 100 generi ascoltavo, ma nessuno mi votavo. Giravo per il centro, ero fisso in sala giochi. Rubavo libri e cose perché soldi erano pochi. Pomiciavo in discoteca, ma scordavo nomi e volti. Me ne sbattevo il cazzo, affogando i miei ricordi. Zero testa, finta furia, finto bravo e molta boria. Vita svelta, mi perdevo, nah, non era la mia storia. Vieni con me, vieni, vieni con me. Pomeriggio al bar con la compagnia, la mia creatività era già messa in pericolo, perché rinchiuse tra le mura di una casa del popolo. Poi la scuola, il motorino, nuove conoscenze, espandevi i miei orizzonti così in tutta Firenze. Decisamente un tipo un po' fuori dagli schemi, ma trovai finalmente il senso. Quattro amici veri, quattro punti di riferimento, e questo era già tanto. Avere sfoghi validi per me, per il mio talento, era dentro di me ed abbracciava i miei pensieri. Ma doveva soltanto riuscire a venire fuori. Un sentimento nato dall'istinto naturale mi ha dato nuovi stimoli per continuare ad elevare. Era un insieme di cose che ritenevo complesse. Fu così che venne da me e poi mi disse: vieni con me, vieni, vieni con me. Vieni con me, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni con me. Vieni, vieni con me, vieni con me. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni con me. Vieni, vieni con me, vieni con me. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni con me. Vieni, vieni con me, vieni con me. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Credere in me stesso è ciò che potevo fare. Dare una tra le tante cose che mi ha saputo insegnare. Come accettare tutta la passione nelle cose che si fa. Capace di tirare fuori la mia vera identità. È un fuoco ardente che ci ha incendiato cuore e anima. Un tornado fiammeggiante, sospinto dalla nostra metrica. Libero dai dubbi che influenzano le scelte. Alla fine abbiamo capito qual è lo scopo più importante. Migliorare ogni giorno, provare a salire un gradino. L'incontro delle due strade forse era già scritto nel destino. Adesso nella vita un ruolo e me lo tengo stretto. Non ti stupire se quest'uomo sta guardando verso l'alto. Guardando indietro so che è cambiato ciò che amo. Un uomo ha scelto di seguire il suo sentiero. Dopo tanto e troppo tempo in balia di molte onde, ho seguito il cuore che batte forte sul rullante. Vieni,